Mare, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La preghiera nei centri islamici di Monfalcone, il TAR dà il via libera definendo insussistenti i presupposti per inibire l'utilizzo, accolto il ricorso dell'associazione Baitus Salat relativa all'ordinanza con cui il comune di Monfalcone aveva inibito l'uso dell'area di pertinenza dell'edificio di via Primo Maggio. Già annunciato il ricorso del comune al Consiglio di Stato. Tre aggressioni a distanza di poche ore nel carcere di via Spalato Udine, coinvolti tre diversi agenti della polizia penitenziaria e altrettanti detenuti, episodi che alimentano ancor di più il dibattito sulla sicurezza del personale penitenziario. In Friuli Venezia Giulia c'è stato un calo di assunzioni rispetto al 2022, soprattutto nell'ex provincia di Pordenone, è diminuito il numero di nuovi contratti, si attesta il fenomeno delle dimissioni, lo attesta una ricerca dell'IRES su dati IMSS. L'Associazione Italia Nostra, che da più di 20 anni è impegnata sul patrimonio di archeologia portuale e industriale del Porto Vecchio di Trieste, ha organizzato un dibattito sul futuro del pontone noto come Ursus, che appartiene all'archeologia navale e marittima. Resi noti i nomi dei vincitori dei premi del concorso di moda Itz Academy edizione 2024, ad aggiudicarsi il riconoscimento più importante, un artista giapponese che ha dedicato il premio alla nonna. Ha debuttato ieri sera al Teatro Verdi di Trieste il Nabucco nella lettura risorgimentale firmata dal regista Giancarlo Del Monaco e diretto da Daniel Oren. L'attrice Amanda Sandrelli sarà protagonista questa sera al Teatro Rossetti di Trieste della pièce spagnola Vicini di casa, commedia libera e provocatoria che indaga con leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. Le 12:32 minuti in questo istante, questi titoli. Ancora un buongiorno da Giorgio Beerz e Maria Spezia, che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di sabato 23 marzo. Come avete sentito nei titoli, dunque, il TAR del Friuli Venezia Giulia, con sentenza in forma semplificata, ha accolto il ricorso dell'associazione Baitus Salat relativa all'ordinanza con cui il comune di Monfalcone aveva inibito l'uso dell'area di pertinenza dell'edificio di via Primo Maggio. Il giudice ha infatti ritenuto insussistenti i motivi che avevano indotto il comune a vietare l'utilizzo dell'area esterna, ritenendo che non si tratti di un cantiere, come aveva sostenuto la stessa amministrazione comunale di Monfalcone. Da ricordare che di recente il Consiglio di Stato si era espresso sull'utilizzo dei locali per il culto, mentre in questo caso la sentenza di merito riguarda invece una specifica area di cantiere dove appunto era stato proibito il culto. Il comune ha già annunciato il ricorso al Consiglio di Stato. L'area esterna dell'edificio di via Primo Maggio non è area di cantiere, lo stabilisce il TAR del Friuli Venezia Giulia con una sentenza in forma semplificata. Accogliendo il ricorso dell'associazione Baitus Salat, il comune di Monfalcone farà ricorso al Consiglio di Stato. Lo annuncia il vice sindaco Garritani. Le notizie si susseguono una dall'altra. A margine di Monfalcone Geografia, pochi minuti dalla presentazione del libro del sindaco Anna Maria Cisint, il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti per inibire l'utilizzo dell'immobile nella sua interezza, anche alla luce della sua destinazione all'esercizio di diritti di rango primario, quale la libertà di riunione, di associazione e di culto. Diritti che non godono di prevalenza incondizionata sui contrapposti interessi pubblici. Il riferimento è alla sentenza del Consiglio di Stato sull'analoga vicenda di un'altra area, ma che avrebbero giustificato un più attento bilanciamento delle rispettive posizioni. È scritto così nella sentenza del TAR, che riguarda l'accesso dell'area, non la preghiera. Significa che la partita degli immobili usati dai centri islamici per pregare e chiusi dal comune di Monfalcone è ancora aperta perché, secondo il comune, la decisione del TAR riguarda il profilo urbanistico della pertinenza esterna e quindi ci sarebbero le ragioni per il ricorso. Monfalcone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca registra 3 nuove aggressioni avvenute a distanza di poche ore nel carcere di via Spalato a Udine, coinvolti 3 diversi agenti della polizia penitenziaria e altrettanti detenuti, episodi che alimentano il dibattito sulla sicurezza del personale penitenziario. Giovedì mattina, graffia al volto e contusione al polso per un ispettore capo. Giovedì pomeriggio, un assistente capo finisce in pronto soccorso nel tentativo di bloccare la distruzione del mobilio di una cella. Venerdì mattina un ispettore cade nel tentativo di bloccare un detenuto, 20 giorni di prognosi. 3 episodi in poche ore nel carcere di Udine, coinvolti 3 diversi agenti di polizia penitenziaria e 3 diversi detenuti dentro per reati di droga. Tossicodipendenti non dovrebbero stare lì dentro per stessa ammissione del sindacato Sappe, che ha denunciato le aggressioni. In una settimana detenuti passati da 145 a 151, quasi il doppio della capienza regolamentare. Ieri gli ultimi, i nuovi ingressi. Il sovraffollamento è in realtà di tutta Italia, tanto che l'amministrazione non riesce a soddisfare le richieste di allontanamento dei detenuti coinvolti in questi episodi. L'organico di polizia penitenziaria di 85 unità dovrebbero essere 105, ma nella realtà, indica il Sappe, ogni giorno siamo ancora meno. Infortuni, ma anche colleghi che si ammalano perché hanno paura di entrare in sezione. Per 1.500 euro al mese, botte comprese, commenta il sindacato. Non c'è ricambio generazionale, i colleghi che hanno più di 50 anni hanno difficoltà a gestire i carcerati giovani. Il garante dei detenuti di Udine, Franco Corleone, è in contatto con l'azienda sanitaria per garantire assistenza esterna, in detenzione terapeutica, a 2-3 detenuti con fragilità psicologiche. Entro un mese, inoltre, di concerto con il Dipartimento di Salute Mentale, dovrebbe arrivare uno psicologo a tempo pieno. Oggi è presente a orario ridotto. Si lavora inoltre di incrementare le fasce orarie di copertura del medico in via Spalato. Giovedì, quando ci sono state due aggressioni, indica il sindacato, era uno di quei giorni in cui eravamo scoperti. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il mondo del lavoro, secondo un'indagine dell'IRES su dati dell'INPS, risulta che in Friuli Venezia Giulia nell'anno appena trascorso c'è stato un calo di assunzioni rispetto al 2022, soprattutto nell'ex provincia di Pordenone. Diminuito in generale il numero di nuovi contratti, mentre si assesta il fenomeno delle dimissioni. Un mercato del lavoro dinamico, ma con meno assunzioni che nel 2022. Secondo i dati INPS, elaborati dall'IRES, in Friuli Venezia Giulia il numero di nuovi contratti è diminuito del 2,6% rispetto all'anno precedente. 4.200 in meno, un numero che, secondo il ricercatore Alessandro Russo, è condizionato dalla flessione, soprattutto di nuovi contratti di somministrazione, scesi addirittura del 13,8%. Questo connesso verosimilmente al rallentamento delle attività manufatturiere in Friuli. Scendono notevolmente anche i contratti di apprendistato, stato con la crescita contestuale del lavoro intermittente, mentre rimane stabile l'utilizzo degli stagionali, entrambe tipologie molto utilizzate nel turismo. Contrazione invece per i nuovi assunti a tempo indeterminato, dato probabilmente dovuto in parte anche alla difficoltà di reperire lavoratori in certi settori. Per quello che riguarda gli interinali, il trend riguarda un po' tutta Italia, ma in regione è accentuato soprattutto per la componente femminile, scesa del 17,7% rispetto al 10% degli uomini, e riguarda gli italiani più che gli stranieri. Si assesta invece il fenomeno delle dimissioni. Nel 2023 le cessazioni dei rapporti di lavoro sono scese del 4,9%, anche se quelle volontarie rimangono di gran lunga la motivazione principale. A livello territoriale le assunzioni, come dicevamo, sono scese soprattutto in Friuli. Nell'ex provincia di Pordenone i nuovi contratti di lavoro sono stati del 6,4% in meno rispetto al 2022, a Udine del 4,9%, e hanno riguardato moltissimo il lavoro interinale, anche se in entrambi i territori i nuovi assunti a tempo indeterminato sono calati del 5%. La stessa tipologia di contratto è meno usata anche a Gorizia, mentre è positiva a Trieste, con numeri però significativamente più piccoli in valore assoluto. Nel capoluogo però in controtendenza al lavoro somministrato, 581 nuovi interinali in più, in crescita di quasi il 15% rispetto all'anno precedente. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Questura di Trieste ha introdotto ulteriori procedure per ridurre i tempi di attesa per il rilascio del passaporto attraverso gli sportelli della Questura di Via Torbandena nei commissariati Polo San Sabba, Muggia e Duino. Le novità introdotte sono i maggiori posti disponibili nell'agenda ordinaria e l'introduzione di un'agenda prioritaria che affiancherà quella ordinaria. L'agenda prioritaria consentirà all'utenza che abbia documentate ragioni per motivi di salute, lavoro, familiari e turistiche di prenotare l'appuntamento appunto in via d'urgenza. Sono stati inoltre ampliati gli orari di apertura degli sportelli ed incrementato il personale preposto alla erogazione del servizio. Né alcol né droga alla guida è lo slogan della campagna di controlli della Polizia di Stato nel contrasto all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Il questore di Trieste ha disposto una complessa macchina di controlli dalla sera di venerdì fino alle luci dell'alba di oggi, che ha visto impegnati gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia Locale di Trieste, affiancati dai medici della Polizia di Stato, impegnati negli accertamenti clinici per l'accertamento della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Sottoposti a controlli etilometrici, 316 conducenti, accertate alcune violazioni che hanno portato al ritiro di 15 patenti di guida, 160 in totale punti patente decurtati. A Codroipo si sono aperti questa mattina i lavori dell'Assemblea Nazionale delle Proloco. Una standing ovation ha chiuso l'intervento di ringraziamento e di passaggio di consegna di Walter Pezzarini dopo 12 anni di presidenza delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia. A succedergli è Piero De Marchi, eletto dai rappresentanti della Pro Loco regionali riunitesi per l'assemblea a Codroipo. Presente ai lavori il presidente nazionale Umpli Antonio Laspina, oltre all'assessore Bini e il presidente del consiglio regionale Bordin. Di prosecuzione del lavoro svolto da Pezzarini ha parlato il nuovo presidente. Pietro De Marchi. Adesso le sfide che in qualche modo ci aspettano sono altre, sono un po' più quotidiane, ma comunque sono comunque delle sfide che cercheremo di vincere e sicuramente di superare. C'è il problema del ricambio generazionale che effettivamente è un po' langue, ma cercheremo di mettere in campo tutte le forze per far sì che questo avvenga e far sì che forze nuove arrivino e ci arrivino a dare una mano, ma non solo, anche nei nostri direttivi, ma soprattutto formare i nuovi dirigenti. Un panorama che raccoglie 234 Pro Loco con oltre 20.000 volontari e 1.400 eventi in regione. Codroipo, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. 12:41, passiamo al meteo. Il cielo è sereno sulla costa, coperto in pianure sui monti. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 15,5 gradi, a Gorizia 18,5 gradi, Udine e Pordenone 15,5 gradi, in area montana Tarvisio 13, Tolmezzo 11,5 gradi, Forni di Sopra 9,5 gradi, a Sappada 8, a Piancavallo 6,5 gradi, in quota sul monte Zoncolan e sul monte Lussari 2 gradi, sulla costa a Lignano 16 a grado, 15 gradi. E queste le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale. Dal pomeriggio qualche pioggia sui monti e alta pianura, forse anche qualche temporale, mentre sulla costa inizierà a soffiare vento da sud. Verso sera piogge temporali più diffuse con raffiche di vento anche sostenute da nord a nord-est, quota neve che scenderà dai 2000 metri a meno di 1000 in poche ore, con neve anche nel fondovalle tarvisiano a tarda sera. Domani cielo in genere poco nuvoloso, variabili sui monti con la possibilità dal pomeriggio di qualche rovescio temporale, più probabile sulla fascia prealpina. Nella notte al mattino sulla costa soffierà bora moderata, al primo mattino rischio ghiaccio al suolo nel tarvisiano, dalla sera in montagna e in pianura farà freddo per la stagione. La 56esima assemblea Avis provinciale Pordenone, dal titolo La scelta che unisce, è tempo di rimetterci in gioco, è in programma a Pasiano al Teatro Gozzi alle 14.30. Con un totale di 9.000 donatori, 11.000 donazioni di sangue e plasma, il 2023 si è concluso in allineamento all'anno precedente a fronte dell'aumento di nuovi donatori, delle attività nelle scuole e delle prenotazioni delle donazioni. Il presidente Avis provinciale Flavio Iseppi ha però sottolineato come diventi preoccupante la carenza di volontari attivi che donino il loro tempo per le attività di promozione, dalle scuole all'organizzazione di eventi al contatto per le prenotazioni, tema di cui parleremo in assemblea con Iseppi. Abbiamo discusso dell'impegno dei volontari. In Avis l'impegno del volontario sia a più livelli, però è fondamentale capire che ci sono due strade da intraprendere. Una è quella in cui si diffonde la cultura del dono del sangue e quindi si informa le persone che Avis esiste e che c'è bisogno di sangue. Dall'altro canto invece abbiamo un'organizzazione dietro in cui le persone si impegnano perché tutto ciò avvenga, tipo la chiamata al donatore, tipo l'organizzazione dei convegni delle scuole o la raccolta di sangue direttamente nelle scuole. Questo lavoro ha un ritorno di gratitudine immenso, non c'è tutta burocrazia. Faccio un ulteriore appello di avvicinarsi all'associazione perché merita, mettiamola così. Dal punto di vista tempo, qual è l'impegno richiesto ai volontari? Si può partire dalla manifestazione fatta con un banchetto, una sagra, un evento in cui si fa la promozione, l'informazione o l'attività della scuola, la mezza giornata che può essere dedicata alla scuola o l'attività ai centri trasfusionali, quelle persone che aiutano i nuovi donatori a cominciare la bella attività della donazione. Quindi ci sono varie cose, non c'è un minimo sindacale di tempo da dedicare. L'Associazione Italia Nostra, che da più di 20 anni è impegnata sul patrimonio di archeologia portuale e industriale del Porto Vecchio di Trieste, ha organizzato oggi un dibattito sul futuro del pontone, noto come Ursus, che appartiene ormai all'archeologia navale e marittima. Va salvato e rimesso nuovo per farne una testimonianza del passato del porto di Trieste, ma perché no, anche un'attrazione per i turisti. E la missione di Italia Nostra per quanto riguarda il pontone Ursus, l'enorme galleggiante di 80 metri che svettava nel golfo della città, da decenni dismesso e ora in cattive condizioni di galleggiamento e di corrosione. Recuperarlo significa avere un piano preciso sulla sua destinazione e sul suo impiego, come è emerso nel convegno organizzato al magazzino 26 del Porto Vecchio, cui hanno partecipato anche rappresentanti dell'autorità portuale, del comune, della direzione marittima, della soprintendenza archeologia e belle arti del Friuli Venezia Giulia. All'incontro si sono ripercorse le tappe della storia dell'Ursus, dai suoi primi impieghi all'inizio del Novecento fino all'ultimo utilizzo avvenuto il 31 dicembre del 1994 e poi salvataggio dal tentativo di tagliarlo a pezzi e riciclarlo fino al momento della cosiddetta grande fuga nel 2011, quando l'Ursus, spinto dalle onde, spezza gli ormeggi e va al largo. Ma si è anche cercato di riunire tutte le persone interessate per mettere in piedi un progetto per la sua nuova vita. Serve farlo in tempi brevi, spiega Antonella Caroli Palladini, presidente nazionale di Italia Nostra, per poter scegliere anche l'area del Porto Vecchio, quella sarebbe la zona indicata, con più libertà. Si tratterebbe, insomma, sostiene, di portarlo a terra. Secondo Rossi, assessore alla cultura e al turismo del comune di Trieste, il futuro dell'Ursus, che lui preferirebbe mantenere in mare, non è un problema di finanziamenti, ma di scelte. La cosa migliore, dice, sarebbe trasformarlo in icona della città, un richiamo turistico, magari anche dotandolo di un ascensore. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono stati resi noti i nomi dei vincitori dei premi del concorso di moda It's Academy edizione 2024. Ad aggiudicarsi il riconoscimento più importante è stato un artista giapponese che ha dedicato il premio alla nonna. Una passione nata fin da piccola, quella della moda, quando tornava di corsa a casa da scuola per disegnare con i gessetti abiti e accessori per bambini come lei. È Momoka Sato, giapponese, oggi 29 anni, la vincitrice di It's Academy Award, il riconoscimento della più importante vetrina di giovani creativi di tutto il mondo, nata oltre 20 anni fa a Trieste dall'intuizione di Barbara Franchin. La prima edizione del premio, quella di quest'anno, senza sfilata, che dovrà in poi sarà organizzata solo ogni 5 anni, la prossima nel 2027. Utopia sulla cima della montagna, il titolo della collezione della vincitrice Momoka Sato, una collezione nata nel periodo della pandemia e dedicata alla memoria della nonna uccisa dal Covid e che era stata la sua maestra, maestra di tradizioni nipponiche dalla cerimonia del tè all'arte dell'Ikebana. La premiazione chiude 5 giorni di intenso lavoro creativo e di forti emozioni, ha detto Franchin, 5 giorni di residenza artistica Born to Create, con 16 finalisti da una dozzina di paesi diversi, tra cui l'Italia, rappresentata dallo stilista sardo Ivan Delogu. Oltre all'It's Academy Award sono 12 gli altri riconoscimenti assegnati. Le creazioni di tutti i premiati rimarranno esposte presso la sede di It's Academy nel capoluogo giuliano fino al prossimo 6 gennaio, quando sarà annunciato il fashion designer più votato dal pubblico. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E siamo allo sport basket. In A2 la Pallacanestro Trieste crolla nell'ultimo quarto a Torino contro la formazione dell'ex coach Franco Ciani e finisce 103-91 per i piemontesi. Oggi in campo Cividale a Roma, domani l'APU Udine in casa della capolista Trapani. Ancora una debacle, ancora una sconfitta. Trieste perde la quarta partita su 6 della fase d'orologio sul campo di Torino, squadra rivelazione nelle sapienti mani dell'ex Franco Ciani, mai abbastanza rimpianto. Assenza da una parte il bomber Kennedy e dall'altra Vildera e il rientrante Reyes solo in panchina. La differenza la fanno la qualità del gioco e la concentrazione quando serve. I biancorossi non giocano neppure male, vivono il primo tempo a contatto grazie alle belle iniziative di Ruzier e con i tanti rimbalzi offensivi. In difesa invece notte fonda per 40 minuti, non certo una novità per coach Christian e la sua filosofia, che lascia Vencato libero di imperversare. Nei primi 4 minuti della ripresa si vede forse la Trieste più spettacolare da mesi, ma è un fuoco di paglia firmato integralmente da Eli Brooks, che sigla 12 punti di fila e costringe Ciani a cambiare l'approccio. Con di fatto solo 3 uomini affidabili, Trieste riesce comunque a non sprofondare nonostante abbia praticamente solo danni da Candussi e Ferrero e nulla da Campogrande. La stanchezza e la pochezza tattica si vedono nel quarto finale. Dopo alcune buone iniziative di Bossi, ancora Brooks firma il vantaggio sull'80-78 con un canestro parecchio complicato. Poi è una corrida dove però il Toro a fare la parte del Matador, 15-0 di parziale, con la difesa di Christian che si apre come le acque con Mosè di fronte al Mulo Schina, senza nessun accorgimento tattico. Nel momento decisivo, dietro, la squadra di Ciani morde, emblematica la stoppata del 38enne friulano Cusin sul conterraneo Candussi. 103-91, la vittoria fuori casa manca da dicembre, a Trieste non bastano i 25 punti di Brooks e soprattutto il 40% da tre punti. In classifica il quinto posto ai playoff sembra ritorno comunque al sicuro. E a proposito di playoff, alle 17 Cividale a Roma va a caccia del sesto successo consecutivo. Udine domani attesa sul campo della capolista Trapani. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Per la pallanuoto la squadra femminile di Trieste concluderà la fase a gironi dell'Eurocup affrontando alle 18 la Bianchi lo Spandau Null di Berlino. Le giuliane dopo 5 vittorie consecutive sono già qualificate alla fase successiva. Gli spettacoli ha debuttato ieri sera al Teatro Verdi di Trieste il Nabucco nella lettura risorgimentale firmata da regista Giancarlo Del Monaco e diretto da Dani Loren. Repliche fino al 30 marzo. Scenografia assiro-babilonese, costumi risorgimentali e il doppio binario scelto dal regista Giancarlo Del Monaco per il Nabucco, che va in scena con un cast di alto livello al Teatro Verdi di Trieste. Opera che racconta la prigionia del popolo di Israele in terre straniere, che quindi per Daniel Loren è speciale. Qualsiasi opera che parla del tema degli ebrei, a noi ci tocca, israeliani ebrei. Per noi non è un simbolo, come per gli italiani, ma è la realtà, è la volontà degli ebrei per 2000 anni di tornare al nostro paese. Rapporto speciale quello del direttore anche con l'orchestra e con il coro del Verdi, che con lui danno il meglio di sé e sono protagonisti fin dai tempi stretti dell'entusiasmante sinfonia iniziale. A loro è riservato il brano più amato dell'opera, il Va pensiero, cantato prima nella semioscurità in un angolo del palco e poi dal proscenio in un bis esplicitamente chiamato dallo stesso Oren. Cast di alto livello, dicevamo, a cominciare dai due protagonisti, Roman Burdenko e Maria José Siri, voci scure e potenti che hanno soprattutto il pregio di emergere dalle masse orchestrali, che sono in fondo le vere prime attrici. Una piccola indisposizione improvvisa impedisce al soprano, così come al basso Rafał Sivek, che era Zaccaria, di partecipare al quarto atto. Oren è obbligato alla doppia sostituzione e si affida ad Olga Maslova e Marco Mimica dal secondo cast. I due subentrati non fanno rimpiangere i titolari. Del resto, il risultato trionfale era già ampiamente acquisito, come i lunghi applausi del pubblico. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora spettacoli, l'attrice Amanda Sandrelli sarà protagonista con Gigio Alberti, Alessandra Acciai, Alberto Giusta della pièce spagnola Vicini di casa, diretta da Antonio Zavatteri, in scena a Trieste al Politeama Rossetti alle 20:30. Sul palco una commedia libera e provocatoria che indaga con leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. Abbiamo intervistato Sandrelli per chiederle cosa l'abbia attirata in questo lavoro teatrale. Ho letto parecchie commedie, anche spagnole, e questo testo di Cesky mi ha conquistato subito, perché è scritto benissimo, è una macchina da guerra, come si usa dire, dal punto di vista comico e di battute e di ritmi comici, e nello stesso tempo parla di sesso in modo anche abbastanza scorretto, insomma molto, si sporge parecchio, mai volgare, ma ne parla. E però in realtà, insomma, la tematica che poi è di fondo è l'amore, perché il sesso può essere un gioco, certamente come i nostri vicini lo frequentano in un modo un pochino più, come dire, libero, no? Anticonformista, anticonvenzionale. Ma in ogni caso il sesso è anche, l'erotismo è anche una parte dell'amore, del rapporto d'amore. E nella coppia formata da me e Gigio Alberti è proprio quello che manca, non ci tocchiamo più, non ci abbracciamo più, oltre a non fare più l'amore, quindi insomma è un confronto fra due estremi. Ovviamente, come spesso capita, probabilmente la cosa giusta è a metà. Qual era il messaggio che volevate trasmettere con questo spettacolo? Ma se c'è un messaggio, e credo insomma ci sia più che un messaggio, qualcosa che ti resta quando esci dopo averla vista, dopo aver riso, dopo esserti divertito, appunto che fra questa coppia così chiusa, così arroccata nelle sue nevrosi e nelle sue difese dal mondo, anche fatte di cinismo, di sarcasmo, soprattutto mio marito Gigio Alberti, rispetto alla nostra coppia, l'altra coppia che è forse esageratamente aperta, anche sessualmente, credo che se un messaggio viene fuori è che appunto un pochino di coraggio a una certa età bisogna averlo. E appuntamenti, quarto appuntamento a Clout per la rassegna Libri sotto la neve organizzata dall'associazione Eventi. Stefania Conte presenterà il suo libro Io sono Federico Tavanni, il romanzo biografico dedicato al poeta di Andreis scomparso 11 anni fa. Alle 17 presso la sala convegni Dolomiti di Via Giordani 4. Le rubriche della TGR domani sulla terza rete televisiva Rai alle 11.05 andrà in onda la rubrica Est Ovest curata dalla nostra redazione. Ecco nella scaletta degli argomenti. A guardia dei monasteri serbo-ortodossi, il ruolo dei militari italiani a garanzia della pace in Kosovo. Le cure odontoiatriche in Albania, prezzi bassi ma alle volte con conseguenze pericolose, parlano i pazienti. L'architettura barocca a Praga, il lascito del maestro italiano Giovanni Biagio Santini. La tradizione delle saune in Estonia, il rinnovamento di una tradizione millenaria. Figlio di papà, romanzo dello scrittore croato Dino Pešut, il racconto di una società in crisi. Tutto questo a Est Ovest, domenica alle 11.05 minuti su Rai 3. E sempre domani, ma su queste frequenze, appuntamento con la rubrica Vita nei campi. Sentiamone un'anticipazione. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, non della domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai, domani in apertura alla nuova aggregazione di essiccatoi in regione, primo passo verso una nuova filiera cerealicola. A seguire per la lettura dei corsivi di Licio Damiani, quello intitolato Contorto serpeggiar d'ulivi. Poi il tamarindo, pianta generosa che fa parte delle leguminose, una pianta anche curativa. E ancora il ruolo degli enzimi nei processi fermentativi in catena per la rubrica del vino e per lo spazio della gastronomia una proposta pasqualina da picnic, il pollo fritto in panà. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo, il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi. Per la rassegna Protagoniste, il documentario Il coraggio della libertà, 70 anni di generazioni consapevoli, dell'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica, AIED, sarà presentato a Trieste, al Teatro Miela, alle 20.30, ingresso libero. La mostra Frammenti di vita, che allestisce le opere della pittrice acquarellista carnica Alpina Della Martina, sarà inaugurata a Tolmezzo, a Palazzo Frisacco, alle 17.30. La presentazione della nuova edizione del dizionario del dialetto pordenonese si terrà a Pordenone nella Biblioteca Civica alle 18. Serata di musica e poesia nell'ambito del progetto Pianoforte Poetico con lettura di testi poetici intervallata da esecuzioni di brani di Chopin e Prokofiev. A Pordenone nella sala del pianoforte della Corte degli Orti in Piazza della Motta alle 18. Penultimo appuntamento della stagione artistica del Teatro Verdi di Gorizia per il cartellone di musica e balletto che proporrà l'esecuzione del Requiem di Mozart del coro Ars Atelier e l'orchestra da camera della Filarmonica Slovena diretti da Marco Feruglio. Alzata di sipario alle 20.45. Ultimo appuntamento con San Vito Jazz che proporrà l'esibizione di Amaro Freitas, astro nascente del pianismo internazionale a San Vito al Tagliamento, l'auditorium centro civico alle 21. L'attore Paolo Rossi si esibirà nella sua proposta di teatro partecipato, da questa sera si recita Soggetto a San Daniele del Friuli all'auditorium alla Fratta alle 20.45. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Beerz con la collaborazione tecnica di Federico Comar e Giampaolo Zucchi. A collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR oggi alle 14.30. A tutti voi l'augurio di un buon sabato. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.